cominciati i lavori per la bonifica, anzi per verificare le condizioni della bonifica su un'area dei prati di Caprara, abbastanza limitato come superficie, in cui il comune di Bologna vorrebbe edificare una scuola. L'area non è ancora, lo diventerà in questi giorni, del comune e del demanio, e per avere l'uso dell'area il comune aspetta che il demanio faccia l'analisi per la bonifica dell'area degli ordigni bellici. A parte questa premessa un po' tecnica, la sostanza è che per fare questa bonifica ci sono delle procedure piuttosto devastanti, diciamo, ed è quello che è cominciato ai prati di Caprara, nella zona adiacente a via Saffi, ed è per quello che noi abbiamo cominciato, perché non è che siamo contro la scuola ovviamente in generale né nello specifico, però noi pensiamo che questo sia l'inizio di una strategia più complessiva, che partendo dal fatto che non si tratta di alberi di pregio, come se comunque tutte le piante non concorressero a un beneficio, diciamo così, ambientale ed ecologico, si cominci in sostanza a mettere in discussione la presenza di questo enorme bosco urbano. Pier Giorgio, in questo caso, anche se diciamo può sembrare un intervento secondario, voi sapete diciamo quanti alberi o comunque quanta area viene coinvolta da questa bonifica e quindi da questo disboscamento? Dunque, l'area, come ti dicevo prima, in sé non è enorme rispetto alla superficie complessiva, credo che si tratti di 10.000, una cosa limitata rispetto ai 47 ettari complessivi dei prati di Caprara, però come ripeto sono la testa d'ariete che permette di attaccare finalmente, perché è un desiderio che era di molti, questo bosco e poi andare avanti per le altre operazioni che sono previste dal POC e che sono di ben altro grandezza e natura, perché sono previsti, lo ricordo, 1.300 alloggi, che non sono poco, e che probabilmente saranno l'utenza di questa scuola, di cui in molti non vedono un'esigenza effettiva. Noi sabato mattina ci vediamo in maniera ovviamente assolutamente pacifica davanti a questo cantiere per manifestare tutto il nostro dissenso per queste politiche dissennate di attacco a questo bosco urbano, che tra l'altro lo possiamo anticipare, il bosco urbano è l'idea che è venuta fuori anche dal processo Parteciprati, che poi l'articoleremo meglio con la presentazione, e quindi chi vuole può venire a manifestare con noi